Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo, sono le 15 in punto a Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E poi nella terza ora dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia appunto fino alle 18, ma anche voi tenetemi compagnia. Due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349 238 6666, numero che va bene, anzi benissimo, anche per i vostri WhatsApp 349 238 6666. Il mio account di Twitter @MartaCagnola, le iniziali della trasmissione sono anche l'hashtag cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo fino alle 16, quindi a Radio 24. Con il nostro gastronauta oggi parliamo del vero alimento di tendenza in questo periodo. Scopriremo tra poco di cosa si tratta. Le tecnologie con Enrico Pagliarini, oggi parliamo di PC. Ha ancora senso acquistare un PC? Non lo so, me lo chiedono spesso, lo chiederemo a Enrico Pagliarini. Ma per la prima pagina del nostro sabato, beh, che la forza sia con noi. La forza scorre nella mia famiglia. In mio padre. In me. In mia sorella anche. E quei poteri li hai anche tu. E quei poteri li hai anche tu, chissà se anche lui ha quei poteri. Buongiorno a uno dei miei esperti di cinema preferiti. Sono contenta che sia tornato al sabato del villaggio, Gabriele Niola. Ciao Gabriele. Ciao Marta, ma allora, certo, due poteri, questo ti credi? Ah, ma certo, ma io ero sicura, è una domanda retorica. Gabriele, arriva Star Wars. No, allora lo diciamo com'è stato. Allora, io ho mandato un messaggio a Gabriele e gli ho detto: senti, vorrei parlare di Star Wars. Come sei messo a Star Wars? E tu abbi il coraggio di dire cosa hai risposto? Ho detto che sono un grandissimo fan della saga, in particolare vado pazzo per il personaggio di Spock. Esatto, allora chiariamo subito, perché non dobbiamo darlo per scontato. C'è ancora chi confonde Star Wars con Star Trek. No, allora parliamo di Star Wars, che torna al cinema presto prestissimo. Anzi già, io vedo Enrico Pagliarini che è già arrivato a Radio 24. Enrico, se vuoi entrare in studio anche tu, stiamo per parlare di Star Wars, eh? Ascolta. Allora Gabriele, cosa dobbiamo sapere di questa uscita al cinema a metà dicembre? Dobbiamo prepararci. Secondo te com'è meglio prepararsi all'uscita di questo Star Wars? Allora, la questione è questo, il motivo per cui ne parliamo e quindi ci si pone il problema di come prepararsi, perché non è semplice, perché con Star Wars hanno fatto un po' di macello, nel senso che i film, quelli che tutti conosciamo, diciamo per essere chiari, quelli con Harrison Ford, così non ci sono dubbi, sono tre e si chiamano episodio 4, 5, 6, che già crea un problema, esatto. Perché si inizia dal 4. Ovviamente quando hanno iniziato non sapevano che sarebbe stato il 4, pensavano che sarebbe stato l'1, pensavano certo, che fosse l'1, insomma. Però il loro nome ufficiale è 4, 5, 6, perché okay, in effetti poi, vi ricorderete, nei primi anni 2000 ce ne sono stati altri tre, che però si svolgono prima e che sono episodio 1, episodio 2, episodio 3. Sono quei tre che tutti quanti dicono che sono brutti. Io però te lo devo dire, li ho rivisti recentemente. Insomma, eravamo stati cattivi a dargli da solo così tanto. O eravamo abituati troppo bene. Forse sì, però insomma, diciamo che me li ricordavo peggio, ecco. Ecco, però vedi che anche tu da critico comunque hai fatto il ripasso dei primi episodi per prepararti a questo. Tu cosa consigli sì, di fare? Cioè, come ci si deve preparare? Dacci due dritte se abbiamo più allora, o meno tempo. Ci sono tre scuole di pensiero. Ah, ok. La prima è quella cronologica produttiva, cioè si guardano come sono usciti prima quelli degli anni 70, episodio 4, episodio 5, episodio 6, quelli con Harrison Ford, sì. Poi si guarda quelli che sono usciti negli anni 2000, che però si svolgono prima, episodio 1, episodio 2, episodio 3. Beh, questo poi, ha un senso, cioè, la filmografia sì, così come. Cioè, come, okay. Come il mondo li ha scoperti, sostanzialmente. Perfetto. Poi c'è quella in realtà, seguire il filo narrativo, cioè guardare effettivamente quelli che si svolgono prima, episodio 1, 2, 3, e poi guardare quelli che si svolgono dopo, 4, 5, 6. Io ammetto, li ho riguardati così. Ah, tu hai deciso di rispettare la cronologia non dei film, ma dei fatti. Ok, perfetto. Perché ero curioso di vedere come funzionava, se si vedevano prima i primi, non lo so, insomma volevo un po' vedere se funzionava questa cosa e devo dire che in effetti, vedendoli in questa maniera, noti molte cose, in effetti vieni preparato a vedere 4, 5, 6, diciamo. Ah, perfetto, perfetto, capisco perché... Questo però ha un problema. E per questo c'è la terza modalità. La terza scuola di pensiero che non riesco a immaginarmi. Qual è la terza scuola di pensiero? Sì, ovviamente è una cosa senza senso, e come tutte le cose senza senso nasce su internet, ovviamente. Certo. La cose per le quali non smetteremo mai di ringraziare internet. Allora, in effetti il problema di vederli narrativamente, cioè prima 1, 2, 3 e poi 4, 5, 6, è che viene a sapere subito un grandissimo colpo di scena, che noi qui non diremo perché non facciamo mai spoiler, ma diciamo che nella trilogia originale, quella degli anni 70, c'è un grande colpo di scena a un certo punto, che certo. Se vedete prima i tre fatti degli anni 2000, quelli che si svolgono precedentemente, vi viene svelato. Certo, perché allora, ti rompe quella famosa sorpresa, ok. Esatto, come fare a preservare questo effetto sorpresa, ma comunque vedere. Si può fare così. Sì. Vedere 4 e 5, cioè sì, i primi due episodi girati negli anni 70. Sì. Così si ha la sorpresa, li vediamo subito. Poi tornare indietro e vedere a quel punto i precedenti tre. E poi alla fine vedere l'ultimo di quelli che fu fatti negli anni 70. In perché, questa c'è, maniera... c'è Enrico Pagliarini che si chiede perché. È dall'altra parte del vetro, non è entrato, sì. ma mi comunica gesti. Perché? Perché in questa maniera sostanzialmente voi inserite la nuova trilogia tra il secondo e il terzo film della vecchia trilogia. Il buono è: uno, rimane intatto il colpo di scena della vecchia, sì. E quindi questo è buono. Sì. Due, si chiude bene, perché il finale del terzo film è molto buono, molto bello, un bel finale, quindi come dire, chiudi con piacere. Ah, ok, un lieto fine così. Esatto, e fai tra il secondo e il terzo, fai come un grande flashback, capito? Hai come un grande flashback di quello che è successo, che ti può servire a capire meglio il terzo episodio. Perfetto, quindi queste sono le tre scuole di pensiero su come vedere i capitoli precedenti di Star Wars per affrontare l'ultimo. Diciamolo, ovviamente ci sono gli ascoltatori che ci scrivono, e c'è qualcuno che scrive: Carlo da Latina, mai, per me esistono solo i primi tre, PS viva l'imperatore. E poi ovviamente i fan, però dai Carlo, consentiamo a chi non ha mai visto i film di farsi un panorama. Non ce la fa, Pagliarini è entrato in studio. Guarda, devi sapere, Gabriele, che Enrico Pagliarini ha comprato il biglietto per vedere Star Wars da mesi. Adesso sta lui è uno dei veri eroi, perché sono già in vendita, potete già comprare i biglietti per il cinema. No, ma Enrico Pagliarini l'ha comprato. Quanto tempo fa, Enrico, hai comprato? La mattina del giorno in cui sono stati messi in vendita. All'Arcadia Melzo. Probabilmente anche Gabriele. Esatto, Gabriele è romano, ma dice anche lui il cinema migliore d'Italia. Allora, abbiamo coinvolto in questo happening Enrico Pagliarini prima, perché che poi sapete ci parla di tecnologia alle 15:30, perché non resiste su Star Wars. Allora, io non sono maniaco, però sono appassionato. Io sapevo una cosa del genere, però siamo alle discussioni da bar, quindi certo. Però vorrei anche il contributo degli ascoltatori. Io sapevo che George Lucas avesse iniziato dal 4, sapendo di iniziare dal 4, perché le tecnologie degli anni 70 non gli permettevano di realizzare l'1, il 2 e il 3. Ecco, quindi che non era una scelta, ma... Allora, cosa è contemporaneamente vera e falsa, nel senso che è vero, George Lucas dice questo ed è vero che inizia dal 4, se voi avevate visto episodio 4 al cinema negli anni 70, iniziava con scritto episodio 4, esatto. Anche se era il certo. primo guerriero che andava mai al cinema, certo. Perché lui aveva già in mente il fatto di farne 3 e 3, cioè tre trilogie, e quindi di fare prima questa, e poi aveva già in testa i prequel, quelli che vengono prima. Però quella storia delle tecnologie non è vera, cioè non è quello il motivo. Il motivo è che quello che aveva in mente di fare, cioè il primo film, che non sapeva lui se sarebbe andato bene o no, e quindi esatto, per questo intendevo dire non sapeva che sarebbe stato davvero così, certo. Perché insomma alla fine va bene l'ottimismo, ma si è giocato la carta migliore, in due parole, anche quella aveva capito che era la parte forte, sì, mi gioco quella. Non è male come scuola di pensiero anche questa. Però ragazzi, comunque mi fa ridere che lui si definisca non un maniaco, poi ha comprato il biglietto per primo la mattina del primo giorno. Sapere chi sono i maniaci. Sì. I maniaci sono quelli che vanno vestiti. Io non vado vestito normale. Non è che vado vestito con la maschera. Non andrai vestito con la. Vai solo con la maschera, ma però sotto è normale, questa è la differenza. Oppure no, è normale, quattro, ma sotto. Perché c'è anche Filippo Aureggi che è uno dei tutta una compagnia della radio. Ma devo dire che in realtà prima di prendere i biglietti, sì, mi avevano detto comprameli anche per me in tipo 12-15. Esatto, poi invece uno doveva andare di qua, l'altro non poteva, l'altro allora ragazzi perché, invece scusa, dico sì, solo questa, perché allora, la prima proiezione, io vado a quella alla sera, però la prima proiezione alla mattina alle 10. E quindi giustamente uno che lavora dice vabbè Guerre Stellari, però vabbè, no, io sono il vero maniaco prende un giorno di ferie. Esatto, il vero maniaco prende un giorno di ferie, esatto. Verissimo. Io però vorrei un vademecum per chi magari non ha tempo di vedersi, perché davvero vabbè che c'è il ponte, quindi qualcuno può anche impegnare il ponte a vedersi tutta la saga per prepararsi, visto che comunque esce non la prossima settimana ma la settimana successiva. Un vademecum, Gabriele, per capire a che punto siamo arrivati. Cosa dobbiamo sapere? Ecco, perché quello che non abbiamo detto è che questi sei film che già sono usciti sono organizzati prima i primi tre, poi i primi tre, e questo qui che esce invece si svolge dopo, cioè questo è dopo quelli degli anni 70, gli originali, per cui è il motivo per il quale ci sono gli attori lì, ci sono tutti, cioè c'è Harrison, certo, Ford, Mark Hamill, vecchi chiaramente, perché però insomma quello si svolge dopo. E ci sarà tutto, come dici tu, anche tutta una categoria di persone che non avrà tempo, non avrà voglia, non avrà niente, ma lo stesso qualcosa, qualche base deve avere, perché poi tutti quanti parleranno. Sì, perché poi esatto, se ne parla tutti e bisogna almeno capirci qualcosa, quindi, diciamo, o fingere di aver capito. Una guida per fare in società quando si parla di Guerre Stellari. Fantastico. Prevede che sappiate che, uno, in un futuro remotissimo esiste un impero cattivo che si è contrapposto ad una repubblica, quindi è un po' quello che è successo con la storia romana, a un certo punto da che era una repubblica si passa a un impero e i buoni sono quelli che si contrappongono all'impero. C'è un protagonista che era Luke Skywalker, il biondo, quello che si vede sempre nelle foto degli anni 70, il biondo, che era l'ultimo interprete di una grande dinastia di nobili guerrieri, cavalieri Jedi. Perfetto. E tutti gli altri protagonisti, almeno fino ad oggi, perché noi non sappiamo la trama del nuovo, ma fino ad oggi tutti gli altri protagonisti sono stati imparentati con lui, quindi quelli della precedente trilogia erano i suoi genitori. Quelli di questa che viene, ma non si sa. Uno è di colore, quindi non credo. L'altra, non so. La domanda è, ma davvero non si sa niente? Cioè, noi non vogliamo fare i cosiddetti spoiler, cioè le anticipazioni che rovinano la sorpresa. Però, effettivamente, sono riusciti a mantenere un gran segreto. Guarda, è incredibile. Io sono andato, per conto di una testata, mi ha mandato a Londra ad intervistare i due protagonisti, che sono due ragazzi poco noti. Non sono nomi grossi. Quindi mi hanno spedito, cioè tutto è stato messo su un ambaradan per poter fare questa intervista, non ero l'unico giornalista, e non si poteva sapere niente, neanche nelle interviste. Quindi tu hai fatto delle domande così un po' aeree, un po' volatili? Sì, io chiaramente ci ho provato, magari senza andare proprio, senza essere smaccato, perché lo so che non potevano dire niente, però magari sai, piccoli dettagli, ma per caso questo, per caso niente, non potevano. Ad un certo punto, il momento più incredibile è stato quando gli ho chiesto: come funziona questa cosa della politica di segretezza? Perché io so che voi vi viene imposta dalla Disney, dal regista Abrams, però firmate qualcosa, fate delle riunioni in cui vi dicono quello che potete dire? Mi hanno risposto: non te lo possiamo dire. Ah, molto molto molto bene. Tra l'altro ci scrive Luca da Roma: non un futuro ma un passato, perché a long time ago in a galaxy far far away. Adesso non mi ricordo se è esattamente così. Sì, ha ragione lui. Vero, long time ago, un tanto tempo fa in una galassia lontana. Enrico, va bene come anticipazione? Perfetto. Per quindi chi va questa sera all'aperitivo dice: io voglio andare a vedere, perché, e sa tutto. Perfetto. Fantastico. E dice: ah, ma certo, i cavalieri Jedi, e fate bella figura. Esattamente. Dovremmo farlo sempre. quelli che hanno la spada laser. Beh, no, la spada laser ce l'hanno anche quegli altri, cioè ce l'ha uno degli altri. Sono colori diversi, perché sì, questo è un dettaglio che potete fare bella figura. I buoni hanno le spada laser blu e verdi, i cattivi rosse. Esatto. Beh, sì, ragazzi, sì, abbiamo sistemato Star Wars. Vabbè, magari niente, diciamo come si chiama l'astronave più famosa, così. Il Millennium Falcon, la storia di Harrison Ford. Uno può fare bella figura anche. Ah, il Millennium Falcon c'è, certo. Che no, si trova anche nel nuovo film, quindi potete dire: ma certo, certo, c'è anche il Millennium Falcon. Vabbè, certo, ragazzi, sì, avete sì sistemato l'argomento da aperitivo su Star Wars. Sappiamo tutto. Questa sera rimorchiate. Beh, non lo so se è un gran argomento da rimorchio, Gabriele. Non ho idea, non vi sfido perché non ho idea. Gabriele, noi ti disturbiamo di nuovo presto, anche perché insomma mi è piaciuto parlare di questo Star Wars. Ovviamente mancano ancora un po' di giorni, il 16 è la data giusta e quindi c'è tempo per prepararsi con tutte le tue scuole di pensiero su come vanno visti i film. Mi possiamo è piaciuto sforare, moltissimo. Dai, sforiamo qualche secondo. No, perché mi ha stupito la strategia della Disney, straordinaria, perché hanno fatto tutta una serie di cartoni animati e altre cose e sanno tutto di Guerre Stellari anche i bambini. Ah, certo, e certo, io certo mi sono stupito perché ad un amico ho detto: vabbè, tuo figlio lo lascia a casa, andiamo noi, no? Lui fa: no, sa tutto anche lui. Beh, straordinario. Sì, perché la Disney, come si sa, un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, ha comprato tutto da George Lucas. Cioè ad oggi George Lucas, che è la persona che l'ha creato Guerre Stellari e ci ha fatto veramente tanti soldi, non è più proprietario di niente. Ha venduto tutto la Disney, che siccome è un'azienda seria, molto seria, ha messo in piedi un impero incredibile di, come dici tu, cartoni animati, videogiochi, merchandising, tutto per lanciare il grande nuovo film, che è la punta di diamante, anzi è la punta dell'iceberg di una cosa molto più grande che c'è sotto. Ragazzi, secondo me però dobbiamo tornare a parlare di Star Wars perché i messaggi sono tantissimi. Ad esempio c'è chi ci scrive: forse non tutti sanno che i buoni hanno le spalle blu come il Partito Democratico Americano, mentre i cattivi hanno le spade rosse come il Partito Repubblicano. Affascinantissimo. Bravo, Gabriele, questo sì che è da conversazione al bar. Bravo, ecco ragazzi, questo è ottimo. Gabriele, ti chiamiamo ancora nelle prossime puntate, va bene? Va bene. Diciamo 3 o 4 ore su Star Wars. Lo sapevo. Grazie a Gabriele Niola per essere stato con noi, grazie. Ciao. Ciao, a presto Enrico. Noi ci ritroviamo tra poco, adesso abbiamo con un po' di ritardo la pausa per il traffico e poi ci troviamo ancora con Davide Paolini. D'accordo, ci proverò. No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Il sabato del villaggio. E con un pochino di ritardo, ma abbiamo promesso che recuperiamo, è il momento di parlare di cose buone da mangiare e cose buone da mangiare da scoprire. Allora, quando questa mattina ho letto il tweet di Nonfup Filippo Sensi, che tutti gli appassionati di Twitter e di politica conoscono per essere il portavoce del presidente del Consiglio Matteo Renzi, Nonfup che questa mattina si chiedeva: ma esattamente la rucola di oggi qual è? La quinoa. Ho avuto un sussulto perché sentite di cosa parliamo oggi. Some quinoa. Quinoa. Quinoa. It's the very best quinoa. It might just save the West. Allora, it's the very best, it might just save the West, cioè è proprio l'alimento migliore e salverà l'Occidente. Questi sono dei pazzi che su YouTube hanno dedicato una canzone alla quinoa, che non so bene come si pronunci perché loro ovviamente in americani la chiamano quinoa, ma è davvero il cibo del momento, ne parlano tutti, è la nuova rucola. Lo chiediamo al nostro Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, diciamo subito che l'accento va sulla I. Allora è quinoa. Non sulla O come si è abituati in Italia. Okay. Comunque va su. Dunque, innanzitutto smentiamo tutta una serie di luoghi comuni. Il primo, che non è un grano, anche se viene considerato il grano delle Ande, perché si riduce in polvere e diciamo che gli andini si sono sfamati con questo in luogo del grano. Ma non è un grano, addirittura appartiene alla famiglia degli spinaci, pensa un po'. Che poi davvero a vederlo sembra una cosa completamente diversa. Esattamente. Ma dai. Invece è una pianta erbacea della famiglia della Chinopodiaceae e sicuramente appunto non ha niente a che fare col grano, anche se viene considerato uno pseudo cereale, così viene chiamato appunto per queste diciamo qualità che ha, che si può anche usare come, poi come farina. È il cibo della salute secondo solo dopo il cavolo, così incredibile, viene però permettimi di fare una diciamo una premessa. Perché c'è questo boom della quinoa? Per un motivo molto semplice, che c'è un boom della cucina peruviana. E questo, diciamo, questa erbacea, chiamiamola così, nasce nella zona del lago Titicaca, fra il Perù e la Bolivia, però è sicuramente un prodotto che viene identificato come peruviano, che nel 2013 l'Assemblea dell'ONU addirittura l'ha giudicato, l'ha anzi dichiarato come riconoscimento per i popoli indigeni andini anno internazionale della quinoa. Quindi diciamo che tutte le attese su questo prodotto, è vero, sono grandi. Dicevo, c'è il boom della cucina peruviana da diversi mesi, forse da qualche anno in giro per il mondo. È evidente che ogni cucina poi porta con sé gli ingredienti più importanti, e la quinoa viene mescolata dai cuochi peruviani non solo nelle insalate ma anche nei piatti, insomma a 360 gradi, e quindi di conseguenza è diventata molto ma molto famosa. Oltre visto che questo, va così tanto di moda, tu come ci consigli di mangiarla? Ma io credo che la cosa migliore sia l'insalata. Però considera, metterla dentro l'insalata, considera che ci sono ben 100 varietà, c'è la varietà rossa, la varietà nera e la varietà bianca, quindi addirittura sono 3 varietà, e quindi si capisce quale estensione possa avere. C'è chi parla addirittura di 200 varietà, quindi come in Perù ci sono 1000 varietà di patate, ci sono 200 varietà di questo prodotto straordinario, che è un prodotto biodiverso, quindi è un prodotto sicuramente molto importante anche dal punto di vista della ricerca. Ecco, io non vorrei che questo prodotto entrasse un po' in questo clima, in questo mood di questi ultimi anni, in cui tutti parlano del gluten free e tutti vanno cercando dei prodotti molto particolari che non contengono glutine. Questo è un prodotto completamente diverso. Io sono molto, non dico scettico su questo boom del gluten free, sono abbastanza perplesso, e quindi bisogna prenderlo anche con beneficio di inventario. Chi non ha bisogno, chi non è intollerante, io credo che quei prodotti siano più negativi che positivi. Fatto diverso è la quinoa. La quinoa non deve essere considerata un prodotto gluten free, ma deve essere considerata come un grandissimo prodotto da mettere nella nostra dieta. Ti dirò che già in Italia ci sono larghi tentativi di poterla produrre, mi risulta che stiano tentando nelle Marche, però non credo, a quanto si dice, che sia adatta ai nostri climi e ai nostri terreni, però quando c'è un successo ovviamente un po' tutti corrono a copiare, basta ricordare alcuni altri prodotti che sono diventati ormai omologati in tutto il mondo perché hanno avuto grande successo. Ecco, lasciamo questo prodotto che rimanga un prodotto peruviano nella zona del lago tra Titicaca e fra il Perù e la Bolivia, lasciamolo in pace perché solo lì dà sicuramente il meglio. Per 100 grammi, ecco, si calcolano 368 calorie della quinoa, più o meno come il riso. Certo, quindi, certo. Ecco, teniamolo in considerazione. E se si cuoce a vapore, appunto tu mi chiedevi della cucina, se si cuoce a vapore si conservano tutte le caratteristiche organolettiche. Questo è un fatto importante, però dal punto del sapore è un po', lascia un po' desiderare. Ecco, non è che sia molto sapida, che abbia delle nuance molto particolari, e può essere usata sia a condire l'insalata, ma può essere utilizzata anche nei dolci, nei dessert, specialmente nella cucina delle Ande, appunto viene usata a 360 gradi. Quindi credo che sia un prodotto straordinario che ormai arriva, si trova abbastanza facilmente, perché il Perù non è che sia molto ricco di prodotti, quindi sta basando un po' tutto anche il suo export dal punto di vista agroalimentare su prodotti quali la quinoa. Non ti posso chiedere un itinerario gastronomico in Perù, perché è un po' lontano. Dove ci vuoi portare invece nel tuo itinerario oggi, Davide? Perù un po' lontano, magari posso anche prepararlo la prossima volta. Oggi, visto che comincia a far freddo, anche se la neve ancora non è arrivata, ma credo che molti sciatori si debbano preparare a, diciamo, itinerari gastronomici dove c'è la neve in montagna. E oggi vi porto in Alta Badia. Bene, l'Alta Badia, oltre ad avere dei alberghi molto, molto all'avanguardia, oltre ad avere delle splendide montagne, oltre ad essere uno splendido territorio, negli ultimi anni ha, diciamo, offerto, sta offrendo a sciatori e non una splendida cucina. Ci sono un gruppo di ristoratori, quasi tutti basati in alberghi, che veramente sono saliti nella hit parade anche italiana della ristorazione. Direi innanzitutto che in questi alberghi soprattutto c'è di eccezionale, che non ha un pandan in nessuna parte d'Italia: la prima colazione. Ecco, io qui voglio dare una stoccata agli alberghi italiani perché se la merito. Mediamente la prima colazione negli alberghi italiani, escludendo il super lusso d'altro, ma anche quelli ci sarebbe da tirare le orecchie, è veramente mediocre rispetto al resto del mondo. Io credo che gli alberghi italiani, per dare una grande ospitalità, dovrebbero cominciare a partire dalla prima colazione. Però andiamo a Badia, dove addirittura sono due i ristoranti di albergo. Uno è la Siriola dell'hotel Casa Salares e l'altro il Sant'Ubertus dell'hotel Rosa Alpina. Bene, la Siriola ha un ragazzo giovanissimo che si chiama Matteo Metulio ed è un ragazzo, diciamo, come posso dire, che sa il fatto suo, perché è un ragazzo che ha cominciato a dire che chilometro zero ha molte falle e quindi sicuramente vuol dire che ha molta personalità. Ebbene, la sua è una cucina molto legata al territorio, come del resto anche gli altri, ad esempio basato su una lingua di vitello, su una spuma di patate alla senape, e poi anche a un raviolo liquido al formaggio, ragù d'anatra e petto di quaglia. E poi potrei continuare ancora, ma continuiamo ancora e andiamo all'hotel Rosa Alpina, al Sant'Ubertus. Bene, qui c'è un personaggio noto, perché si chiama Norbert Niederkofler. Questo diciamo chef bistellato è un assertore e interprete della filosofia Cook the Mountain, significa che usa tutti i cibi e materie prime del suo territorio. Uno può pensare che l'Alta Badia, la Badia, non offra molti prodotti, e invece, diciamo, se ci sono dei bravi cercatori si possono anche trovare. Quindi da lui si possono trovare le lumache, per esempio, oppure si possono trovare anche gnocchi di rapa rossa. Quindi diciamo che cerca di agire appunto su quello che trova, su quello che c'è di vicino. Poi c'è un piatto molto, molto particolare, che è della trota. Bene, io poi vi do l'ultimo. L'ultimo è abbastanza un personaggio abbastanza noto. Andiamo all'Hotel La Perla, alla Stua de Michiel, qui dove c'è, in questo ristorante c'è una stube straordinaria del 1800, e qui c'è un personaggio che si chiama Michiel Costa, che nel mondo della ristorazione e del vino è molto conosciuto perché ha costruito una cantina sotterranea che è incredibile, che si può visitare a ritmo di musica, perché ad esempio gli champagne e le bollicine ballano a ritmo di musica. Sì, è proprio così, chi non ci crede vada a vedere. Sono molto curiosa, cercherò. Oppure se uno va nella cantina dove c'è la storia del Sassicaia, è l'unico che ha tutte le bottiglie, compreso il 68, di cui non esiste più nulla. Ebbene, lì si sentono recitare i cipressi da Bolgari, quindi si sente la poesia del Carducci e si sente il vento che spira, portato appunto lì, che spira in Maremma, nonché c'è anche la terra di Maremma. Quindi devo dire che qui non solo si mangia molto bene, ma la cantina è uno spettacolo, e quindi vale la pena di andare a visitare, perché c'è il meglio del mondo, ma c'è anche uno spettacolo straordinario. Che meraviglia, Davide, io ho preso un sacco di appunti, poi con questa chiusa così poetica, davvero un bel itinerario. Alla prossima settimana, Davide, grazie per essere stato con noi. Ciao, alla prossima. Allora, ringraziando Davide Paolini, lancio una brevissima pausa, perché adesso facciamo rientrare Enrico Pagliarini. A tra poco. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il nostro sabato del villaggio. Abbiamo parlato del boom della quinoa con Davide Paolini. Prima avevamo parlato di Star Wars e lo sapevo, arrivano messaggi che chiedono speciali su Star Wars. Lo so, è un argomento che appassiona. Abbiamo avuto Gabriele Niola, super esperto, ma era già entrato in studio non resistendo al richiamo di Star Wars. Enrico Pagliarini, che buongiorno, abbiamo qua. Ciao. Enrico, però aspetta, ti introduco bene con la canzone che abbiamo scelto per oggi, solo per te. Mi hai detto parliamo di carta, paper, talking heads. Allora, parliamo di carta all'inizio, perché ne ho parlato anche brevemente a 2024, mi ripeto, però mi sembra una innovazione straordinaria, geniale. Allora, la Epson il 10 di dicembre presenterà ad una fiera in Giappone una macchina, che è un macchinone abbastanza, non è una roba consumer, non è che ce la potremo comprare al negozio, almeno per adesso, che si chiama Paper Lab, laboratorio della carta. Che cosa fa questa macchina? Prende i fogli di carta stampati, cioè uno stampa, poi butta dentro questa macchina i fogli. Lei con un sistema segreto, ma senza usare solventi, acqua, tutto a secco. No, non dirmi riduce, che cancella No, riduce il foglio in fibre e ricrea i fogli. No. Cioè escono 14 fogli al minuto, non bianchi, pronti per la stampa. No, è bellissimo. Geniale, bravissimi, bravissimi. Cioè noi i fogli sui quali stampiamo, non so, la scaletta della trasmissione, sì, la scaletta del giornale radio. Noi abbiamo alcuni colleghi che sono dei maniaci della carta, che stampano. Qualsiasi cosa. Gli compreremo questa macchina. Noi mettiamo la carta e viene cancellata e si può riusare. Geniale. Bellissimo. E, allora, verrà presentata questa fiera in Giappone e la Epson ha già dichiarato che entrerà in commercio nella prima parte del 2016 in Giappone, poi nel resto del mondo. Però diciamo, siamo vicini alla commercializzazione. È una macchina gigantesca, nel senso che è lunga 2,5 metri, alta 1,80 metri, quindi probabilmente servirà a grandi uffici, però è la prima, magari fra qualche anno ci sarà, non dico proprio da portarsi certo, a casa. Si comincia sempre così con le meraviglioso. Cose meraviglioso, secondo me è bellissima questa invenzione. Beh, straordinario. Vabbè. Però tu mi avevi anticipato anche che avresti cercato di rispondere a una domanda e io ti dico, allora, a me la pongono spesso. Esatto. Ha ancora senso comprare un PC? Risposta affermativissima. Se esiste sì, qualcosa di più del sì, no? Allora, io dividerei la popolazione in due. Quelli che hanno esigenze di mobilità, di forte mobilità, che sono sempre in giro per lavoro o anche per altro. Comunque, in questo caso, uno direi può scegliere tra il tablet. Certo. Con tutta una serie di tablet è straordinario. Io da quando esistono i tablet non ho più il computer portatile. Perché so che più o meno poi arrivo da qualche parte dove ho un computer fisso. Però può essere una scelta. O solo il tablet, ci sono anche c'è la possibilità di mettere la tastiera sul tablet, bla bla bla. Oppure, cosa che io consiglio se uno ha forti esigenze di mobilità, un PC portatile leggero, ultra leggero. Però qui stiamo parlando di macchine che costano infatti sto dicendo, dai 1000 euro in su, belli, sì, bellissimi, sì. Fantastici, straordinari. Però, allora, dove ha molto senso il computer e dove avrebbe anche senso aggiornarlo? In casa, io consiglio, a volte non vedo l'ora di tornare a casa col mio bel computer, con questo schermo bello grande. Seduto alla scrivania. Esatto, allora, con una serie di se noi abbiamo il computer in casa e investiamo qualche soldo la prima volta su un monitor, su un bel monitor, e qui parliamo di cose che vanno dai 24-26 pollici in su, non limitiamoci a una roba da 20 pollici, un bel monitor, dopodiché il monitor ce lo portiamo avanti per 10, 15, 20 anni. Il monitor sostanzialmente, insomma, se abbiamo investito del denaro non lo cambiamo più. E poi ci concentriamo sulla macchina, quindi un computer fisso ha il vantaggio A di essere un po' più economico rispetto al corrispondente in termini di caratteristiche computer portatile, B è una macchina che si può aggiornare se siamo capaci noi, ma poi lo portiamo ad un negozio, insomma l'aggiornamento è abbastanza facile, che ne so, aumentiamo la RAM, cambiamo il disco e magari ci mettiamo un bel disco allo stato solido che è quelle molto più veloce. Quelle cose che ci siamo dimenticate di poter fare coi portatili. E invece non si possono fare. Allora, ha anche molto senso, perché ancora oggi, nonostante ci siano le app, ci siano i siti ottimizzati per smartphone, per tablet, moltissime cose, moltissime attività anche su web sono molto più semplici e facili farle da un computer desktop, il vecchio computer fisso. Alcuni potrebbero dire per mancanza di capacità di ottimizzare i siti per mobile, sì, un po' è vero. O ad esempio per il fatto che adesso spesso guardiamo la TV tramite il computer. Anche, certamente, se io ho un bel monitor da 27 pollici mi posso guardare anche, oddio, se ho un TV davanti al divano meglio, no? Però certo, può essere, mi guardo un telegiornale, mi anche ascolto la musica banalità, Spotify gratuito su computer permette di fare tante cose che non è possibile fare sul telefonino o sul tablet. Okay. Ci sono alcuni limiti. È vero anche che ci sono alcune cose che si fanno molto meglio dallo smartphone e dal tablet. Però in generale devo dire, almeno basandomi sulla mia esperienza, io non giro tutti i giorni, tutte le settimane, c'è gente che è sempre in giro per lavoro, ma insomma giro, ma tutti noi giriamo abbastanza. Io devo dire che a volte non vedo l'ora di arrivare davanti al mio computer, sia in radio che a casa. Ah, che bella cosa! Col mio bello schermo grande, che tutto funziona per bene, non ho problemi, perché a volte anche col tablet si hanno delle limitazioni anche nella produttività. È vero, puoi mettere la tastiera, però puoi mettere scrivere con un bello schermo gigante. Sappiamo più o meno quanto costano i tablet, dalle poche, sì, dai poco più di 100 euro di quelli proprio entry level, sì, ad arrivare a 1000 facilmente. Sì, sì, sì. Diciamo abbiamo che con detto, 500 euro si compra una bella macchina anche. Abbiamo detto i portatili ultra leggeri, ultra chic, sì, anche sì, 1000 sì, euro. Sì. Invece il PC? Ecco, il PC, allora con già tra 300 e 500 euro si comprano delle buone macchine. Non abbiamo detto che un'alternativa al PC di casa può essere anche un computer portatile, chiamiamolo trasportabile, cioè se uno non si muove tanto spesso potrebbe anche optare per un computer portatile con un grande schermo, quindi che soddisfa le esigenze anche di visibilità sui siti o anche quando uno scrive. Grande schermo, pesante. Quindi uno dice dovrebbe essere leggero. No, se uno non ha delle grandi esigenze di mobilità, compra un computer abbastanza pesante, senza perdere delle caratteristiche fondamentali, ma risparmiando qualche soldo, perché naturalmente l'ingegnerizzazione del prodotto non è pensata per essere leggero, quindi si risparmia qualche soldo. Compriamo delle buone macchine portatili con già 500-700 euro, insomma, non è un prezzo. Ecco, il problema è che poi, quando dobbiamo cambiare la macchina, non è che possiamo tenere il monitor, in quel caso. Però può essere una soluzione, senza spendere una follia. E quella lì ti confesso che è la soluzione che ho adottato io, solo che ogni volta che poi lo porto in giro dico, però potevo comprarmene uno più leggero, vabbè, non siamo mai contenti. Sì, è vero, però se lo porti in giro poco spesso, quindi se uno, effettivamente, perché molte di queste scelte devono essere fatte anche sulle esigenze di, certo, famiglia o personali, se uno si sposta, che ne so, due volte all'anno per vacanza e dice, beh, mi porto il computer, effettivamente può essere un'idea scegliere un computer trasportabile, perché per quelle due o tre volte all'anno si può anche fare un po' più di fatica, oppure lo si butta in macchina o si mette in valigia. Oppure si viaggia, come faccio io più spesso, col tablet, e quelle volte che serve si porta. Esatto. Insomma, interessante, bisogna guardare tutte le opzioni. Enrico, rimani con noi però, perché voglio anche l'app della settimana, però tra poco. Sì, non è proprio un'app, ma qualcosa di... Vabbè, allora che ci sono curiosa mille app della settimana, tra poco dopo il traffico. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presento Il sabato del villaggio. questa me la sentirei tutta. Ma che pezzone era Big in Japan? Era veramente bello. Sì, Big in Japan, perché era stata presentata in Giappone. Esatto, la questa macchina, di sì, 10 di dicembre. Quindi fantastico, se uno vuole andarla a vedere, c'è a tempo. Enrico, durante il traffico ti sei già arrabbiato da solo? No, non col traffico. No, l'anno scorso abbiamo lanciato una campagna contro il fanalino antinebbia. Certo. Che va utilizzato solo in casi di estrema necessità, cioè quando proprio c'è un nebbione pazzesco, oppure quando sei l'ultimo della fila, quando dietro non c'è nessuno. Ma se sei in autostrada e hai qualcuno dietro, sono rarissimi i casi, c'è sempre, posso dirlo? No, paura. Vabbè, c'è sempre uno che tu sei lì in autostrada tranquillo e... ho paura quando Pagliarini si inalbera. Ma... Enrico, abbiamo un minuto per la app della settimana. Dunque, chi ha un... questo è solo per chi Android, Amazon ha lanciato questa settimana una sezione dello store dove vende le app, che si chiama Underground, però in questo caso non vende le app e non ci sono solo app gratuite, ma mille, una selezione di un migliaio di applicazioni a pagamento, le regala Amazon, le regala. Ricordiamo che su Android molti sono abituati ad andare sul Play Store, in realtà ci sono tanti altri negozi da cui si possono scaricare le applicazioni o comprare le applicazioni. Quello di Amazon è uno di questi, naturalmente questa è un'attività promozionale di Amazon che tenta di acchiappare qualche nuovo cliente, però insomma è una offerta, sono mille app gratuite, uno le può provare. Grazie per il consiglio, Enrico, resta con noi perché parliamo di cinema e così scopri cosa c'è questa settimana. Benissimo. In sala. Anna Maria è sparita da 20 giorni. L'ho cercata dappertutto, nei commissariati, negli ospedali, ma niente, niente. Non posso tornare indietro. Ora basta, cosa c'entrano i padri Murias e Longaville con chi mette le bombe? Assolutamente niente. Andiamo, presto, presto, presto. Forza. Hanno trovato Angelelli sul ciglio di una strada, col cranio fracassato. Una per lei e una per il sindaco. Davanti a queste vittime possiamo voltarci dall'altra parte. O possiamo rispondere ai criminali: non prendetevela con mio fratello. Che tu possa andare dove più ti amano. E lo abbiamo già capito da questo estratto. Parliamo di un film molto atteso, attorno al quale si è sviluppata nei mesi molta curiosità, un'uscita davvero importante per numero di sale. Parliamo del film dedicato alla gioventù di Papa Francesco e alla sua vita fino all'elezione a Papa, un film di Daniele Lucchetti. Chissà se vale la pena andarlo a vedere, lo chiediamo come sempre al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto a tutti. Ma guarda, rispondo in maniera un po' più articolata: vale la pena vederlo, è un ottimo prodotto che però si presterebbe a rimanere ottimo anche in televisione. Non è un film nel quale la componente cinema fa fare il salto di qualità, la componente grande schermo, però è realizzato molto bene. Daniele Lucchetti è quello del Portaborsa, è quello di Domani Accadrà, insomma è un regista abbastanza, come dire, non allineato del cinema italiano, anche molto morettiano in un certo senso, e vedi che i temi ritornano, certo. Il Papa anche in questo caso, e devo dire che ha lavorato molto bene, anche grazie a Rodrigo Della Serna, l'attore protagonista, è riuscito a raccontarci il Bergoglio non ancora Papa. Lo fa come, diciamo, strategia narrativa, mettendo il Bergoglio che stende i panni con Piazza San Pietro sullo sfondo nei giorni che precedono il conclave, il Bergoglio cardinale che pensa al suo passato, pensa a che cosa è stato. Il film è molto bello, molto interessante, si conclude proprio al momento in cui il soglio pontificio, come dire, viene varcato, ed è un ottimo prodotto che sicuramente farà grandi numeri anche al cinema, perché sono più di 500 le sale che lo ospitano nel primo weekend, e sicuramente il motivo di andare a vederlo è di capire qualcosa in più su questo Papa che ha mosso così tanto anche nei non cattolici, tra l'altro, i motivi ci sono. A onor del vero, Mediaset ha assicurato che il film arriverà in televisione, perché è anche un'uscita televisiva, ma tra molto tempo. Assolutamente. Quindi, assolutamente, chi lo volesse vedere, certo, non si aspetti che arrivi nel giro di qualche mese. Poi noi vogliamo mandare la gente al cinema. Ovviamente, certo, però hanno detto perlomeno un anno e mezzo, quindi al certo cinema. Però capisco il tuo ragionamento nel momento in cui tu mi dici: non è un film che visivamente deve essere per forza visto in uno schermo cinematografico. come invece un'altra delle uscite di questa settimana. Assolutamente, come Heart of the Sea, Ron Howard la firma, quindi un impianto da cinema, da grande cinema classico americano. Subito lo consigliamo a chi vuole essere travolto. Chi vuole essere travolto dalla coda della balena bianca di Moby Dick, perché questo è in fondo non tanto il prequel, quanto la storia vera che ha ispirato Melville nello scrivere poi con fantasia Moby Dick. Devo dire che il film intanto ti riporta la passione di qualcosa che dallo schermo ti travolge, esce anche in 3D, per chi ama particolarmente questa forma di fruizione cinematografica, ma è un film soprattutto che ti riporta alla grande epica dell'uomo contro la natura. Insomma, ci sono gli elementi di quel cinema di massa, di quel cinema grande proprio, di cui Ron Howard è il maggiore interprete di questo periodo. E poi tecnicamente è un film impressionante. Franco, una chicca invece da scoprire questa settimana? Allora, questa settimana c'è un film spagnolo, si intitola La Isla Minima, è un vero e proprio giallo, un noir, racconta la storia della scomparsa di due ragazze, due sorelle, in un paesino della Spagna nell'immediato post-franchismo. Siamo nel 1980, un paesino della Spagna estrema, e in questo villaggio arrivano due poliziotti per indagare su questa scomparsa. Ecco, è interessante come si usi il genere, il noir poliziesco d'indagine, e anche con venature thriller molto molto accese che ti tengono sulla poltrona, per raccontare anche altro, cioè per raccontare come l'uomo in quel momento in cui la libertà era ritrovata ancora non sapesse neanche cosa fosse la libertà, non sapesse neanche utilizzarla. E devo dire che questo è il grande pregio del film del regista spagnolo Alberto Rodriguez, La Isla Minima, che vi consiglio assolutamente di andare a vedere. Ma noi vogliamo tenere incollati alla sedia anche gli ascoltatori di Radio 24. Anche i piedi, non c'è problema, assolutamente. Perché rimaniamo collegati anche dopo il GR delle 18 con te, con La Rosa Purpurea. Con La Rosa Purpurea, sì, un'ora di cinema qui su Radio 24 dalle 18, oltre a tutto quello che abbiamo detto, altri film, si gioca insieme con il nostro film misterioso, e facciamo due chiacchiere anche col critico Vieri Razzini, che è il responsabile della collana Il Piacere del Cinema, la collana di Un Video che è arrivata, pensate, a 100 uscite, 100 film andati a pescare nei film inediti in Italia, ma grandi capolavori del passato. Tre passi nel delirio è stato l'ultima operazione, abbiamo giocato anche noi col nostro DVD game, e ci racconterà anche i piani per il futuro, quindi restate qua. Grazie Franco, e con Il Sabato e il Villaggio l'appuntamento sabato prossimo. Ciao. Ciao Marta. Vuoi partecipare a una serata esclusiva in compagnia dei maestri del doppiaggio? Fino al 14 dicembre lascia il tuo provino alla voice box di Voice Anatomy al numero 828 1212. Se la tua voce sarà all'altezza dei più grandi, potrai essere tra i tre fortunati a partecipare come pubblico al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio in programma a Roma giovedì 17 dicembre. E quindi, voce! Info su radio24.it. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Il sabato del villaggio. Eccoci con la seconda ora del sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24, come sempre la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Fateci compagnia con i vostri sms al 349-238-6666, numero che va benissimo anche per i vostri messaggi WhatsApp, 349-238-6666. Se invece usate Twitter, il mio account è @MartaCagnola. Anche nella prossima ora saremo insieme dalle 17 alle 18 con Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma cosa succederà in questa seconda ora del sabato del villaggio? Sapete chi sono i Gemeliers? Beh, sono i nuovi idoli delle ragazze. Andremo a scoprire cosa piace alle ragazze nel 2015, quasi 2016. I libri del momento, poi con i consigli di Alessandra Tedesco, il momento dei consumi e delle tendenze, come si sistemano i prodotti al supermercato. Scopriremo tutti i trucchi insieme. Ma prima, da Gomorra al cinema con un attore amatissimo. Noi qui a Casale abbiamo insegnato al mondo la strada per ottenere giustizia. Di questo disastro non ne sapevo niente. Adesso ci sono talmente dentro che ho paura di non uscirne più. Ho paura che non ci sia più posto per altro. Per qualcosa di bello. Per cui valga la pena vivere. Di questo film è un tema molto molto delicato, ma il film è un film molto atteso. Da cosa partiamo? Dal titolo del film, dal nome del regista, dal nome dell'attore? Vabbè, io saluto subito i due bei ragazzi che ho davanti a me, Francesco Ghiaccio. Buonasera. Ciao, Francesco. Ciao, un piacere essere qui. E Marco D'Amore. Ciao Marco. Che meraviglia essere qui. Ah, quanto tempo, da quanto tempo non ci vediamo. E questa volta non ci vediamo per Gomorra, film in cui tu spari o sei sparato. Sono disarmato. Sei disarmato. Totalmente. Questa volta. In tutti i sensi. Sei il protagonista di Un posto sicuro. Un posto sicuro. Un film ambientato in un posto che già dice tutto, perché se noi diciamo Casale Monferrato, il tuo ruolo è quello di un aspirante attore che abbandona il suo sogno perché la realtà lo chiama. Diciamo che Luca aveva un sogno, voleva fare l'attore e secondo me ne aveva anche le capacità. Questo ha detto anche di suo padre, Edoardo. I due da un po' non si frequentano per orgogli, per incomprensioni, come tante volte succede nella vita. Fino a che queste due solitudini sono costrette ad incontrarsi, perché Luca viene a sapere che suo padre, ex operaio della Eternit, è ammalato di mesotelioma. Francesco, uscire con un film del genere a dicembre è una sfida? È una bella sfida, hai detto bene, è una scommessa importante che noi affrontiamo senza paura. Cosa ti aspetti da questo film, Marco? Che magari qualcuno ti dica, cioè che qualcuno scopra che c'è qualcosa di più oltre al tanto che abbiamo visto in questi anni. Secondo me è un film talmente riuscito ed onesto che ti ci perdi dentro. Quello che succede all'uscita dalla sala è la necessità di tirare un grosso respiro, perché l'emozione è stata talmente forte che ti ha compresso tutti i muscoli, ed è quello che volevamo e speriamo che continui così. Poi io sono felicissimo. Marco, a te sai cantare? Ti piace cantare? Devo dire che è una passione che ho da quando sono piccolino. Ah. Ho cominciato suonando e cantando, sì. Ah, però la nascondo perché mi vergogno. Invece tu hai finito di girare Gomorra? Gomorra. Qui l'attesa, naturalmente, lo sai. Avete finito di girare? Abbiamo finito di girare 20 giorni fa e adesso c'è in atto la fase di post-produzione, fra qualche mesettino. E c'è un'attesa pazzesca per la seconda stagione di Gomorra dopo il successo della prima. Francesco, tu sei pronto a dirigere il prossimo film di Marco D'Amore, che adesso sicuramente dovrà fare minimo un musical? Guarda, perché lui, non so se però lui vuole cantare. Ah, cioè, guarda, lui lo sa. Lo sai, vero? Sfascio tu lo la sai. Testa da 10 anni. Non sai che da sempre che cerchiamo di trovare qualcosa che riguardi la commedia e il musical. Eh sì, è vero, me l'hanno detto che tu, anche quando sei stato a X Factor, in realtà tu volevi cantare. Cioè, il tuo obiettivo è quello nella vita, giustamente, altro che Gomorra. Ma io innanzitutto devo dire ai radioascoltatori che nasco come musicista. Fin da bambino ho cominciato a cantare, Marco, a suonare il flauto traverso. Tant'è che quando ho abbandonato lo strumento, l'insegnante, piangendo, disse alla mia mamma: signora, lei è pazza se fa abbandonare la musica a suo figlio. Ah, sempre vedi? Stato il mio pallino grandissimo. Abbiamo scoperto qual è il segreto di Marco D'Amore. Marco, in quanti ti chiedono quando torna Gomorra? Chiunque ti incontri te lo chiede. Beh, entrando qui in radio ho fatto il conto, erano 102 persone. Lo so. 98 selfie. Però sempre col sorriso, sempre disponibile. Ma io mi diverto, cioè, io penso che il datore di lavoro di un attore sia il pubblico. Quindi al capo, anche quando stai girato, non è che puoi rispondere in malo modo. È vero. Poi, essendo uno molto ritirato, che si concede pochissimo, so che quando sono in situazioni pubbliche incontro la gente, è doveroso ringraziare e poi mi fa piacere. Di Gomorra lo dico io, primavera, e probabilmente sarà aprile. Sì, sì. Ragazzi, adesso Un posto sicuro lo accompagnate anche un po' fisicamente. Proprio perché veniamo dal teatro, interessa particolarmente il contatto con il pubblico. Di Marco, vedo. No, volevo dire un altro motivo di interesse che fa di questo giro una una cosa importante per noi è che, essendo sotto periodo natalizio e girando noi regione per regione, vogliamo assaggiare tutti i dolci tipici di Natale. Quindi invitiamo, come si faceva una volta quando si andava a teatro e si mangiava in sala, di arrivare in massa e di portare dolci, dolcetti. E noi ci vorremmo film e poi ci fermiamo lì a parlare, facciamo Caserta, poi facciamo l'Interland napoletano, poi andiamo a Bari, poi saliamo su, facciamo Genova, Bologna, Ferrara, noi andiamo ovunque. Vi abbiamo avvertito per le cucine d'Italia. Esatto, sì. per le specialità locali. Grazie Marco D'Amore, grazie Francesco Ghiaccio, grazie, ragazzi, in viva bocca Radio 24. Al lupo. In bocca al lupo. Viva, crepi. Viva, crepi. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Il sabato del villaggio. Intanto ho appena avuto il coraggio di postare una foto bruttissima che ho fatto con Marco D'Amore. In realtà lui bellissimo, io come direbbe Marco, una chiavica, però insomma mi è venuta così, fa niente, l'ho postata lo stesso, chiocciola Marta Cagnola al mio account di Twitter, 349-238-6666 il numero per i vostri sms e i vostri WhatsApp. Al sabato pomeriggio di Radio 24, adesso invece è il momento di parlare di libri. Si chiama Susan Tedeschi, la scelta la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao, non c'è nessuna parentela. Esatto, io non tedesco, per parentela, ecco, e non per affinità di nome. Perché questa Susan Tedeschi? Perché questa Susan Tedeschi? Perché viene citata come cantante blues in un libro di cui si sta parlando molto in questo periodo, che si intitola Per tutto l'oro del mondo, scritto da Massimo Carlotto, pubblicato dalle edizioni EO. È una nuova puntata delle avventure del suo personaggio seriale, l'alligatore. Era mancato dalle pagine per almeno 5-6 anni e poi adesso ce ne sta tirando fuori uno dopo l'altro Massimo Carlotto con l'alligatore. E proprio a Radio 24 aveva annunciato in anteprima il titolo di questo romanzo, che adesso appunto è uscito a novembre, Per tutto l'oro del mondo. E allora, Susan Tedeschi che c'entra? C'entra perché naturalmente l'alligatore, che al secolo è Marco Buratti, ossia investigatore senza licenza, è uno che ama moltissimo il blues, frequenta locali blues, cita per esempio questa canzone di Susan Tedeschi, è particolarmente appassionato di questa cantante, e in questa nuova puntata c'è anche un aspetto romantico, perché l'alligatore si innamora, inizia a corteggiare Cora, almeno così si fa soprannominare, una casalinga un po' annoiata, mettiamola così, che un paio di sere a settimana va in questo locale blues e canta. Beh, però giallo ovviamente, non solo perché la copertina è gialla. Beh no, perché naturalmente l'alligatore è uno dei personaggi seriali di Massimo Carlotto, uno dei re italiani del noir, del giallo, del poliziesco. Che cosa succede in questa puntata dell'alligatore? Beh, come sempre Massimo Carlotto si fa ispirare dalla realtà, quindi prende il tema delle rapine in villa e della questione dell'autodifesa. Delicata. Purtroppo delicatissima, purtroppo di cui si sta parlando per ragioni di cronaca anche in questo periodo. Che cosa succede? Siamo nel nord-est, avviene una violenta rapina in villa, vengono torturati e uccisi il proprietario della villa e la governante. In realtà si scopre che il proprietario della villa era un ricettatore di gioielli, quindi la questione si fa più complessa. L'alligatore inizia ad indagare 2 anni dopo, per una ragione che adesso non vi spiego, la scoprirete nel libro, capisce che qualcosa non quadra, però formalmente ha bisogno di un ingaggio, di qualcuno che lo ingaggi per investigare, e allora rintraccia il figlio della governante che era stata uccisa, che è un ragazzino, che gli dà 20 centesimi, così simbolici, per dire con questi 20 centesimi io ti pago e tu puoi indagare. Naturalmente l'alligatore e i suoi amici, che sono sempre gli stessi, Max La Memoria e Beniamino Rossini, scopriranno delle verità poco comode o scomode, come possiamo dire, insomma, non belle sicuramente, su tutto il giro che c'è delle rapine in villa. Perfetto per gli amanti dei gialli, dei noir, dei polizieschi, da comprare, da comprarsi, sì, da regalarsi, insomma, per gli appassionati di Massimo Carlotto e dell'alligatore sicuramente, ma anche per chi vuole concedersi così, non è necessario leggerli in serie i romanzi dell'alligatore, ci sono cose che sono successe e si dà per scontato che tu in qualche modo le sappia, però puoi tranquillamente iniziare da qualsiasi alligatore. Libri di cui si parla, allora io sento parlare molto del libro di Massimo Carlotto, quali altri libri sono sulla bocca di tutti? Argomenti di conversazione non mancano. Argomenti di conversazione anche sui social, è un libro di cui in realtà non si è parlato, è scoppiato un caso. Michela Murgia, che è una scrittrice, insomma anche abbastanza famosa, aveva vinto il Campiello alcuni anni fa con Accabadora, era ospite qualche sera fa a Rai 3 nella trasmissione della Berlinguer Linea Notte. A un certo punto in collegamento avrebbe dovuto parlare del suo ultimo romanzo Kiru, pubblicato da Einaudi, però lei si è rifiutata, ha detto: non mi sento nello stato d'animo di parlare del mio libro dopo che abbiamo parlato di morti, di guerra, di bombardamenti, quindi non riesco a passare con estrema facilità da un argomento così, insomma, serio a un argomento di fiction. La Berlinguer, insomma, si è un po' arrabbiata, hanno avuto un piccolo battibecco, devo dire la Murgia ha mantenuto la sua posizione, dice: non sono in grado emotivamente in questo momento di parlare del mio libro. Allora ne parliamo noi. Sono curiosa di sapere di cosa tratta questo libro. Perché... Guarda, è un romanzo in cui ci sono due protagonisti, Eleonora, una donna di 38 anni, e Kiru, un ragazzo molto affascinante di 18 anni. Lei diventa un po' la sua guida in tante cose della vita, diciamo. Lui ovviamente è affascinato da questa donna più grande e più esperta della vita. Lei invece ovviamente è affascinata dall'energia di chi sta muovendo i primi passi nella vita adulta. Questo meccanismo così della donna più grande, dell'uomo più giovane, non è la prima volta che capita ad Eleonora, le era già capitato con altri tre allievi, però chiariamo subito, non è una banale storia di toy boy, insomma Michela Murgia è una scrittrice veramente intelligente, saggia e che racconta delle storie veramente profonde, più che altro accende un faro sull'arte del manipolare, del manipolarsi a vicenda, e su come l'amore sia a volte deformante, cioè ci autodeformiamo oppure tendiamo a voler deformare l'altro. Interessante, contenta di averne scoperto di più, perché ero rimasta al duello, sì, volevo sapere anche di cosa parlasse questo libro. Ancora consigli, vedo che davanti a te hai la copertina libro... alla radio, da tanto che non la facciamo sentire. La copertina alla radio. Allora, la firma è molto nota. La firma è molto nota, tutti conoscono un suo solo libro perché praticamente è l'unico, possiamo dire, la scrittrice, l'americana Harper Lee, e tutti la ricordano per Il buio oltre la siepe, che vinse il premio Pulitzer nel 1960. Questo è il caso editoriale dell'anno, perché anche in America è stato pubblicato, adesso viene pubblicato anche in Italia da Feltrinelli, ed è una sorta di sequel del buio oltre la siepe e si intitola Va, metti una sentinella. In realtà era stato scritto prima del buio oltre la siepe, a metà degli anni 50, ma era rimasto inedito. È stato scoperto nel 2011, se non erro, durante una valutazione, insomma, del patrimonio della scrittrice in una cassetta di sicurezza. È stato scoperto questo manoscritto, si pensava fosse una prima versione del buio oltre la siepe, e invece poi si è capito che era completamente un altro romanzo, quindi adesso è uscito come sequel, sempre ambientato in Alabama. C'è Atticus Finch, che è appunto l'anziano padre, la figlia scout a 26 anni, lei torna da New York in Alabama, e c'è ancora un mondo di tensioni sui diritti civili, razzismo, impegno politico, insomma, e così via. Va, metti una sentinella il titolo. Va, metti una sentinella, vi consiglio di leggere però prima Il buio oltre la siepe a questo punto. È certo, un grande classico, certo. Lo si trova in edizione super economica, e forse andrebbe letto prima quello e poi questo. Letto o riletto, se hai già letto possiamo andare avanti, dai. Ma io forse lo devo rileggere, perché l'ho letto veramente molti anni fa, ricordo meglio il film. Confesso, ricordo meglio il film, devo averlo letto negli anni del liceo più o meno. qualche consiglio natalizio? Beh, diciamo che anche questi sono tutti ottimi regali. Sì. Sicuramente questo pomeriggio c'è chi va felicemente in libreria a comprare un po' di regali. Che cosa possiamo ancora far mettere nel cestino della spesa? Ecco, questi erano i libri, diciamo, che sono un po' sulla bocca di tutti in questo momento. Io invece vi do due consigli proprio personali. Allora, ho pensato a te, Marta. Oh. Cioè, adesso non ti offendere, però per gli alienati da social network. Un po' sì, un po' sì, dai, un po' sì, un po' per ragioni professionali, un po' per natura. Veramente un bel romanzo di Tommaso Pincio che si intitola Panorama, pubblicato da una piccola casa editrice, NN Editore. Tra l'altro ha vinto la sezione italiana della prima edizione del premio Simbad Città di Bari, che è dedicato proprio alle case editrici indipendenti. Bello. Allora, il protagonista è questo Ottavio Tondi. Lui faceva l'editor in una casa editrice, era responsabile di tanti successi editoriali. A un certo punto, non vi spiego perché, ma il mondo improvvisamente inizia a non leggere più. Quindi lui di fatto si sente mancare il terreno sotto i piedi, non può né leggere né scrivere, quindi si iscrive a questo social network che si chiama Panorama e per 4 anni corrisponde con una donna che in realtà ha visto solo in foto e della quale riesce a vedere il letto. Sempre sfatto, perché in questo social network Panorama, se ti iscrivi devi avere, come dire, una telecamera puntata su un angolo della tua abitazione e quindi c'è questa corrispondenza quasi surreale, questo diario che porta avanti il protagonista di Panorama. Strano, veramente lo consiglio a chi è troppo dipendente dai social network. Beh, dai, io troppo no, però devo dire che ci passo un po' di tempo. Accidenti. Alessandra, vedo per gli appassionati probabilmente di New York, perché vedo la copertina New York Stories. New York Stories a cura di Paolo Cognetti, pubblicato da Einaudi, magari per chi passerà le feste a New York, magari anche Capodanno o un po' dopo. Paolo Cognetti è uno scrittore, vi faccio un titolo per tutti: Sofia si veste sempre di nero, era stato pubblicato da Minimum Fax, un romanzo veramente molto molto bello, erano una serie di racconti in realtà tutti intrecciati. In questo caso lui ha scelto alcuni scrittori americani che hanno scritto di New York in alcuni racconti o estratti dai loro romanzi. Quindi abbiamo Francis Scott Fitzgerald, Dorothy Parker, Mario Soldati, Truman Capote, Oriana Fallaci, Don DeLillo, insomma tanti scrittori americani e non solo che hanno descritto e parlato di New York. Diciamo che è una versione in pagine di Manhattan di Woody Allen. Bello, so già chi potrei regalarlo, questo me lo devo segnare perché potrebbe essere un perfetto regalo per qualcuno che ho in mente. Alessandra, a proposito di consigli, il cacciatore di libri. Cacciatore di libri, stasera alle 22, la versione estesa. A questo punto, insomma, l'intervista con Massimo Carlotto, di cui abbiamo parlato all'inizio, con Per tutto l'oro del mondo, e poi altre cose. Grazie Alessandra. Per rimanere in contatto con te, a proposito di social network, Twitter, chiocciola, Twitter, Ale Teddina. Ci sei anche Facebook, tu, ci sei anche tu. Insomma, ci ritrovate sempre comunque. Ciao Alessandra. Ciao. Il sabato del villaggio. Siamo sempre insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio. Abbiamo parlato di libri con Alessandra Tedesco, abbiamo avuto ospite il grande, grandissimo Marco D'Amore insieme a Francesco Ghiaccio, regista di Un posto sicuro. Dobbiamo ancora aprire 2 pagine del nostro sabato prima poi di dare la linea a RadioTube. Saremo insieme dalle 17 alle 18 con Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. 2 pagine del sabato del villaggio, la prima è quella dei consumi. Mi manca un chilo di pace integrale e 2 etti di comprensione. È un cartone d'amore a lunga conservazione. Non rimane che fare la spesa, continuare a pagare per quello che voglio, quello che non ho ancora. Ci resta solo la spesa, l'unica cosa che ci rimane è andare a fare la spesa, almeno facciamola bene. Però buongiorno Maria Luisa Pezzali. Ciao Marta, buon pomeriggio, un saluto a tutti. I Marta sui tubi cantavano la loro lista della spesa. Parliamo di spesa dunque. Beh, questa te la rubo Marta poi per essere non a è dire, male questo pezzo. Grazie . Del suggerimento. Sì, perché oggi voglio parlare di supermercati e acquisti d'impulso. Ecco Marta, non ti è mai capitato di andare al supermercato, uscire con lo scontrino in mano e chiederti come ho fatto a spendere così tanti soldi? Non mi è mai capitato che non mi capitasse, cioè quasi sempre io quando allungo la carta di credito ho quell'attimo di esitazione, dico ma Come? Come? Poi magari vai a vedere se per caso è stata battuta due volte, è stato battuto due volte un prodotto, oppure si sono dimenticati di caricarci gli sconti e poi non è mai così. Magari hai preso quel prosciutto che non ti sei accorta era quello che costava 10 euro. Esatto. Sì, che sempre. Beh, la risposta a tutto questo si chiama marketing, cioè tutto quell'insieme di strategie, trucchetti dei supermercati studiati proprio per farci spendere di più. I trucchi che è bene conoscere, quindi iniziamo a raccontarli. Prendo nota. Il più classico è lo zucchero, Marta, perché il più delle volte è in fondo al supermercato e in scaffali poco visibili. Perché? Vero. Perché così noi andiamo a cercarlo, è un alimento di prima necessità, se l'abbiamo segnato ci serve per forza, e andando a cercarlo passiamo davanti a tutti quegli altri prodotti che non avevamo preventivato di comprare, li vediamo invece, li compriamo proprio. Avevo proprio bisogno anche di questo e di questo e di questo, ok. Acquisto d'impulso, appunto. E poi occhio agli scaffali, perché i prodotti più costosi sono posizionati all'altezza degli occhi. Proprio certo, quelli che ti arrivano. Il famoso prosciutto di qui sopra, esatto. Quello comodo era quello che costava tantissimo, esatto. Ok. Un'altra posizione privilegiata è quella delle cosiddette testate di gondola, cioè l'inizio delle corsie. Qui i supermercati collocano le offerte speciali o i nuovi articoli da lanciare. E dopo tutto questo percorso, se anche il più stoico dei consumatori, non siamo noi, Marta, riesce ad arrivare alle casse senza aver comprato nemmeno uno in più dei prodotti, insomma, che si era prefissato di acquistare, ecco l'attacco finale: caramelle e dolciumi alle casse. Quelli inevitabili, inevitabili, poi colorati, carini, quello, una tentazione insopprimibile. Assolutamente sì, e guarda caso è l'area dove i bambini fanno più capricci e dove c'è una media di vendita superiore a qualsiasi altra area del supermercato, ovviamente le catene lo sanno. Questo per venire al tema, è un argomento molto caro ai consumatori. Nel 2008, prima in Europa, la catena di supermercati francese Leclerc ha deciso di togliere le caramelle dalle casse sostituendole con prodotti sani, ad esempio gli snack a base di frutta. La stessa cosa quest'anno in Inghilterra hanno fatto Lidl e Tesco. Ebbene, in Italia l'annuncio è di qualche settimana fa, dal 2016 lo farà anche la catena di supermercati U2 del gruppo Unes. Quindi insomma una scelta coraggiosa, controtendenza, la prima in Italia. Della salute, bene. Di una spesa responsabile. Ne abbiamo parlato allora con un esperto, è Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare, promotore un anno fa di una petizione sul tema. Ecco che cosa ci ha detto. Abbiamo rivolto, mandato una lettera a tutti i supermercati dicendo: ma perché voi non fate come altre catene di supermercati, come ad esempio Leclerc in Francia, oppure come Tesco e Lidl in Inghilterra, che hanno preso un'analoga decisione più di recente? Non ci ha risposto praticamente nessuno. Il motivo per cui c'è stato questo rifiuto da parte dei supermercati di accettare la nostra proposta, di aderire al progetto, è di tipo prettamente economico. Perché? Ogni grande azienda che espone questi prodotti alimentari paga circa 1000 euro per cassa, per prodotto. Basta fare i conti e ci si rende conto. Questo perché? Perché è il posto migliore dove esporre i prodotti, è piccolo lo spazio ma ha una grande resa e quindi dà un ottimo incasso. Valutando le metri quadrati, lo spazio delle avancasse rende 2-3 volte di più rispetto a tutti gli altri scaffali del supermercato. E questo è molto importante per le catene e non vogliono rinunciare. Un'altra cosa che abbiamo notato: i prodotti alle casse esposti, snack, caramelline, eccetera, hanno un costo doppio o triplo, parliamo di 40-50 euro al chilo, perché uno lo compra, costa 1 euro. 50 centesimi, le caramelle hanno un costo di 40-50 euro al chilo, anche altri prodotti, che è praticamente il doppio o il triplo rispetto ai 15-20 euro al chilo degli altri prodotti simili che trovi sullo scaffale. Quindi c'è un altro elemento da considerare. sono motivazioni di carattere puramente commerciali e si tratta di prodotti ricchi di grassi, ricchi di sale e ricchi di zucchero, sono poi tre problemi dell'alimentazione non solo dei bambini ma anche dei grandi. Gli stessi prodotti possono essere messi sullo scaffale, voglio dire, non è che si decide non venderli, cioè, non è che siamo così censori, però metteteli sullo scaffale insieme a tutti gli altri dolci e snack e senza fare l'acquisto d'impulso, che è una metodica un po' selvaggia di vendita che però funziona sempre. Mi piace questa cosa, non diciamo di non comprarli però o di non venderli, però non costringeteci a farci distrarre proprio nel momento così dell'attesa alla cassa. Beh, mi sembra una scelta molto responsabile, appunto. Concordo. Qualche già strategia anticrisi l'abbiamo data con questo approfondimento sulla spesa, però è il momento dei consigli di Cristina Lazzati, dovremmo averla già in linea. Buonasera Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Cristina. Eccoci qui. Ciao. Eccoci. Cristina, allora, quali sono i tuoi consigli per questo sabato? Allora, visto che si è parlato di dieta, si è parlato di attenzione all'alimentazione, per non parlare del disastro delle carni rosse, che bisogna sottolineare, insomma, le carni rosse se mangiamo bistecca, pranzo, cena, colazione fanno male, ma in linea di massima esagerare fa sempre male nell'alimentazione, però diciamo che molti di noi hanno riguardato le verdure con un altro occhio e quindi parliamo un po' di vegani. Allora, diventare vegani è facile, diventare vegan anzi è facile, e infatti ho trovato subito un sito che è vegfacile.info, dove se uno vuole diventare vegano bisogna anche capirci un po', perché hanno, come dire, i vegani hanno un vocabolario un po' tutto loro, scoprono cereali di cui noi non sapevamo neppure l'esistenza. E quindi c'è questo sito che consiglio per chiunque stia prendendo in considerazione, se non proprio una dieta vegana, almeno dei piatti vegani, aggiungere i piatti vegani alla propria dieta. Beh, questo ti spiega anche il perché e il per come. Due parole sui vegani: di fatto due motivi sono importanti. Uno, quello che comunque mangiare più verdure, più cereali eccetera fa sicuramente bene, e in seconda battuta i vegani non mangiano tutto quello che è comunque legato a cose animali, quindi non solo non li mangiano ma neanche li indossano, per cui il vegano che sceglie di questo tipo di filosofia, cioè una filosofia di vita per, come dire, salvare il mondo animale, beh, neppure mette abbigliamento che abbia a che vedere, pellicce ovviamente e quant'altro, ma nemmeno cose di pelletteria, quindi c'è tutto un mondo anche legato proprio alla produzione di articoli simili a quelli, diciamo, in pelle, ma che comunque non sono passati attraverso il mondo animale. Lo stesso vale per i cosmetici: chi vuole essere vegano a tutti i costi deve guardare di comprare cosmetici o cura corpo e così via che abbiano la dicitura cruelty free e comunque dove non ci sono passati gli animali neanche per il test. Come si fa? A questo punto uno dice: bene, voglio abbracciare questa cosa, ci sono dei siti che effettivamente ti aiutano, in più stanno arrivando anche persino la prima catena di supermercati vegani che si chiama Vegans aprirà, se non alla fine di quest'anno, l'anno prossimo anche in Italia. È una vera e propria catena che nasce in Germania e che di fatto, pensate, aprirà a Portland un intero centro commerciale per vegani, dove appunto dalla cosmetica alla pelletteria, persino le scarpe, sono tutti pensati appunto cruelty free, no animali e quant'altro. Ma bisogna anche imparare a cucinare il vegano. Allora, da una parte c'è un grande classico, sicuramente cucina naturale, che comunque di vegani ha parlato anche quando quasi non ce n'erano neppure in Italia, e quindi lì si trovano ricette, ma adesso ci sono anche altri siti che dedicano completamente alla cucina vegana, come ad esempio vegusto.it, piuttosto che Una vina il piatto, dove ci insegnano anche un po', che devo dire, questa riscoperta delle verdure è sicuramente molto interessante, però diciamo non siamo tanto abituati a cucinarne in grande quantità, ogni regione ha la sua tradizione, però obiettivamente un po' d'aiuto anche dal web non fa male. Anche perché non siamo proprio, non solo in grande quantità, non abbiamo neanche tantissima fantasia, io perlomeno vorrei un po' più di fantasia. Esatto, anche perché quando adesso ci sono tutte le app, così appunto Cucina Naturale ne ha sicuramente una, ma anche gli altri ne hanno, e quindi essere al supermercato, piuttosto anche semplicemente dal fruttivendolo, uno si guarda un attimo nell'app una ricetta e a quel punto ti vengono anche le idee, anche perché effettivamente io sono andata un po' a vederne, i piatti sono anche belli succulenti, invece perché uno ha sempre in mente le due carotine, in realtà qui si parla proprio di lasagne, di, cioè ovvio che non c'è la besciamella, ma ci sono comunque delle cose molto molto particolari. Beh, l'altro giorno leggevo che l'hamburger numero uno al mondo è un hamburger vegano di un locale di New York, ovviamente veg, che è stato super elogiato dai critici del New York Times. Infatti se andate ad esempio su vegusto.it, dove c'è anche la possibilità di acquistare, adesso io me lo sono appena aperto, c'è il burger al pomodoro, il Wooster Maxi Belami piccante, cioè poi alla fine c'è anche tutto un mondo, anche di, come dire, se uno è affezionato anche a certi gusti, li può ritrovare tranquillamente anche fatti per vegani, per cui senza carne, ma che di fatto ricordano appunto il Wooster piuttosto che il burger. Se proprio volete rinunciare, buttatevi sul burger al pomodoro. Chi vuole fare questa scelta vegana o chi vuole semplicemente ridurre il consumo di carne, che potrebbe essere comunque un'ottima idea. Grazie Cristina per essere stata con noi, al prossimo sabato. Grazie a voi, a presto. Allora Maria Luisa, beh insomma io che sono per la varietà dico magari si può ridurre sperimentando anche qualcosa di nuovo. Di consiglio in consiglio, però c'è quello di essere avere quando. Domani alle 22, non mancate un saluto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Il sabato del villaggio. Io vi l'ho detto, in questo blocco saremo andati a scoprire qualcosa che piace molto alle ragazze, è importantissimo per parlare, per capire i ragazzi, conoscere i loro gusti. Adesso ci sono questi due cantanti che sono molto molto amati e li scopriamo insieme. Pregunto si recuerdas el valor de las promesas que me hiciste al volver de aquel lugar donde nadie te aceptaba, pues tu cuerpo extrañaba el calor de las personas de un hogar. ¿Cuántas veces me son bravissime a cantare, son bellissime. Ci hanno colpito dal primo momento, cioè non c'è un perché. Sono unici, cioè fantastici. Cioè, sono stupendi, sono troppo teneri con noi. Cioè, ma avete imparato a cantare le canzoni in spagnolo allora? È stato bello comunque, perché impararlo così è molto meglio che impararlo a scuola. Non male, non male. Tu cosa mi dici? Por tu piel prometiste amor eterno, tantos besos que aún conservo, mentiras pues son para él. ¿Cuántas lunas he llorado? Por tu amor habré matado. Allora, queste ragazze che cantano queste canzoni in spagnolo le ho incontrate qualche giorno fa, sognanti, innamoratissime di questo duo di ragazzi spagnoli, si chiamano Gemeliers o Gemeliers in spagnolo. Io li ho incontrati e ho chiesto a loro di presentarsi. Ecco chi sono i Gemeliers. Yo soy Jesús. Yo soy Dani. Somos Gemeliers y somos un grupo de dos chicos gemelos. Siamo due ragazzi, due gemelli. Abbiamo 16 anni, quasi 17. Cantiamo pop spagnolo e nel nuovo disco abbiamo cantato le prime due canzoni in italiano. Veniamo dalla Spagna, ma adesso giriamo il mondo in cerca di ragazze. Y bueno, venimos de España, pero estamos recorriendo el mundo en busca de ragazze. Hombre, nosotros somos buenos, que se fíen de nosotros, que no le vamos a hacer nada malo a sus hijas. Y... Sí, ma siamo due bravi ragazzi. Fidatevi di noi, che non facciamo niente di male alle vostre figlie. In Spagna abbiamo già fatto due dischi, di cui abbiamo venduto 200.000 copie ciascuno. Abbiamo ricevuto 4 dischi di platino, scritto 2 libri. Abbiamo persino fatto il nostro profumo. Insomma, tante cose. Muchas cosas. Y bueno, ahora estamos intentando después de nuestro... E dopo tutto questo, che non mi piace definire successo, diciamo dopo tutte queste cose, cerchiamo di trovare delle ragazze anche qui. Buscar a más chicas por aquí. Y bueno, pues... Al l'abrigo de esa piel que tanto sueños recorrí. Yo me quedo. Beh, loro sono molto teneri. Le ragazze che li seguono sono molto tenere. Le abbiamo sentite prima. Tra l'altro, cantano tutte in spagnolo perché ormai va di moda tra la serie televisiva di Violetta e questi ragazzi cantare in spagnolo. È impossibile stare dietro a tutti i fenomeni dei ragazzi. Tocca farlo, ad esempio, ai critici musicali. E in linea abbiamo uno dei miei preferiti, Paolo Giordano, critico musicale del Giornale. Ciao Paolo. Eccomi, ciao Marta, come stai? Grazie dell'invito. No, no, guarda, sono sempre contenta di averti e mi chiedo, tu che sei un appassionato di musica tosta, il critico, sì, che tiene sempre il volume alto, come ti definisci, sì, come fai tu a stare dietro a questi fenomeni teneri, carini, ma sempre in movimento? Ma intanto è difficile, onestamente io mi sono accorto di questi ragazzi quest'estate al Coachella Summer Festival, quando sono arrivati a Roma e hanno cantato e io non li conoscevo, ma le ragazzine già li conoscevano. E cantavano in spagnolo, ovviamente. E cantavano in spagnolo. E questo è, insomma, da un po' la misura di quello che noi, come critiche, come giornalisti, siamo in grado di stare dietro ai ragazzini, cioè sempre meno, perché il, diciamo, il modo di diffondersi della musica è ormai a una velocità fotonica, quindi non si fa fatica. Nel caso di questi due ragazzi, bisogna dire che intanto in Spagna ha venduto più dischi di One Direction, che insomma è un significato importante, perché non vanno dietro, ecco, diciamo così, sono sempre rimasti davanti ai One Direction nonostante l'esposizione mediatica, e rappresentano il lato buono del pop adolescenziale, perché hanno dei testi d'amore, sono completamente avulsi da qualsiasi esagerazione, non hanno nessun tipo di allusione politica, non hanno nessun tipo di allusione sessuale. Credo che questo sia molto importante in un momento in cui ci sono messaggi talvolta un po' distorti che arrivano anche dai gruppi adolescenziali. Quindi insomma, questi Gemeliers non dobbiamo stare attenti, sono sostanzialmente innocui. E poi appunto a me diverte molto che queste ragazzine abbiano imparato alla fine lo spagnolo. Ma tu stai parlando di un evento in Piazza del Duomo? Sì, sì, c'ero appunto. Esatto, lo so. Io sono passato, avendo la redazione del mio giornale, la sede molto vicina da lì, sono passato, ho visto le ragazzine e ho visto e ho sentito che parlavano in spagnolo. Mi hanno fatto veramente piacere, questa cosa mi ha fatto piacere. Ed è una cosa che da non solo, possiamo dire, insomma, usare una frase piuttosto autoreferenziale, ma abbastanza, cioè dà l'idea, la misura del valore didattico del pop. Anche io ho imparato l'inglese, nonostante mia mamma sia una professoressa di inglese e abbia provato per anni e anni a insegnarmi l'inglese, io l'ho imparato ascoltando il Zeppelin, ascoltando il rock degli anni 70 e degli anni 80. Beh, non paragoniamo i Gemeliers al rock, ovviamente, infatti c'è Giuseppe Chiocciola, c'è Giuseppe Epic Fail che ci scrive su Twitter, che scrive: io ho imparato l'inglese con i Pink Floyd. Ecco, non è esattamente, esatto, la stessa cosa, non però imparare cosa, però le lingue. I Pink Floyd non ci sono più e quindi uno si deve adattare. È vero, o tempora o mores. E io ho avuto la fortuna di avere 15 anni con le Zeppelin, con Pink Floyd, adesso vale trovare. Ecco, Paolo, secondo te adesso a quali fenomeni dobbiamo stare attenti? Perché ci sono ancora gli One Direction o sono già nel declino, visto che uno se n'è andato? Ma secondo me loro sono stati più furbi di tutti, ha capito che c'è questo tempo, questo tempo standard, cioè le boy band, diciamo così, sono come lo yogurt, hanno una scadenza piuttosto, diciamo, prestabilita, e dopo non è preferibile non consumarli, ma è proprio vietato l'uso. Fanno male, però, esatto, esatto. Quindi non lo so, in questo momento dico la verità, siamo secondo me in una vacatio legis, nel senso che non si riesce a capire quale sarà il post fenomeno degli adolescenti. Non a caso questi due ragazzi spagnoli stanno entrando molto forte in Italia, perché c'è una specie di non di vacanze legis, ma insomma c'è una specie di mancanza di punti di riferimento, se non gli ultimi, secondo me, gli ultimi strali, insomma gli ultimi strascichi dei One Direction e un po' Justin Bieber. Io ho incontrato Justin Bieber e secondo me è tutto tranne che un idolo per adolescenti ormai. Beh, ormai infatti l'ultimo disco, peraltro musicalmente anche ha conquistato un po' i più grandi. Ecco. Hai visto, cioè Justin Bieber non è più relegabile al mercato. Al mercato teen, insomma, è un po' seguendo, glielo auguro, il percorso di Justin Timberlake, cioè ecco, di un altro Justin, che è comunque così. Vedrai che Justin Bieber prima o poi ce lo troviamo su qualche set cinematografico. Ah, tu dici che arriverà? Sì, sì, sì. Lui quando gli abbiamo parlato, lui ha detto che se lo chiamasse per 007 non gli farebbe dispiacere, quindi secondo me c'è una porta aperta per il cinema. Non credo che sarà il prossimo James Bond, ma insomma. Ma diciamo che ha puntato subito in alto e ha fatto bene. Esatto, ha fatto molto bene. Paolo, esatto, tienici aggiornato. Allora, quando c'è un nuovo teen idol, un nuovo idolo dei ragazzini e delle ragazzine, allora all'orizzonte, me lo devi assolutamente dire, perché sennò arrivo in ritardo, come con questi ragazzi che mi hanno davvero colto di sprovvista. Ma guarda, io adesso non so se abbiamo tempo, ma io quest'estate, quando sono arrivati lì, io non mi aspettavo che avessero questa esposizione. Non me l'aspettavo, e quindi questo è stata una lezione non solo musicale ma anche professionale, perché vuol dire che noi talvolta, perlomeno io talvolta, perdiamo il contatto con ciò che sta accadendo, perché accade talmente in fretta che è difficile da prevedere. Verissimo, grazie a Paolo Giordano per essere stato con noi ci ritroviamo tra poco perché c'è il GR, poi ci sarà il momento di RadioTube.